Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Aranci, alberi che adoro, il vostro profumo mi addolce. Vi è cosa nel regno di flora che possa riuscir più gradita? Quei frutti dalla buccia soda sono un antico tesoro e il giardino delle Esperidi non vide mai altri pomidoro. Jean de La Fontaine. Domenica 13 dicembre, bentrovati al Giardino Segreto. Non so se nel regno di Flora gli agrumi siano davvero i più graditi. Certo è che sono il frutto dell'inverno, il profumo del Natale e delle feste. Sappiate che se anche non abitate di fronte al Mediterraneo, questi alberi ormai complici al riscaldamento globale ve li potete portare sui balconi anche delle città del nord e chissà, entro la fine della puntata magari anche voi desidererete come me almeno una pianta di limoni. E se credete di non saperne abbastanza sugli agrumi, sappiate che è disponibile in rete free, vale a dire gratis, un libro che mi ha incantato. Si intitola Storie di agrumi e paesaggi, edizione del Rosone, scritto da Nello Biscotti, agronomo, divulgatore, che nei suoi libri parte sempre dalla sua terra, il Gargano, per raggiungere però con le piante il resto del mondo. È attraverso questo libro che mi sono resa conto che gli agrumi sono tra i frutti più diffusi sul pianeta. Chissà perché. Lo chiedo proprio a Nello Biscotti, il nostro primo ospite al Giardino Segreto. Evidentemente ci portiamo dietro una caratteristica essenziale di questo frutto, che è storicamente estraneo al Mediterraneo, quindi è un frutto che ha origini lontane e che ha la prerogativa o è stato obbligato a maturare d'inverno. Quindi d'inverno tu vedi questi frutti rossi, questa succosità. È consumato in tutti i paesi del mondo. Piace? Evidentemente piace. Evidentemente c'è una consapevolezza delle loro proprietà salutistiche. Sono buoni, sono dolci, fanno bene. E che dobbiamo pensare che dobbiamo a loro la possibilità di aver fatto delle scoperte geografiche. Perché senza la vitamina C in nave non si andava molto lontano, no? Sì, dobbiamo agli agrumi la possibilità che abbiamo avuto poi di scoprire questo principio attivo per la vita, che poi diventerà la terza vitamina scoperta, la vitamina C, è quella che ci permetterà di fronteggiare lo scorbuto, che è una malattia terribile con cui l'umanità si è sempre dovuta misurare, e soprattutto nelle spedizioni, in questi lunghi viaggi nei quali era impossibile fare uso di frutta e verdura, e quindi chi pagava poi questi prezzi amari erano proprio questi naviganti. E allora dobbiamo tutto a qualcuno, un capitano della Compagnia delle Indie, che intuisce che gli agrumi potessero avere effetti terapeutici contro questa malattia e somministrava ai suoi marinai 2-3 cucchiaini di succhi di limone. È stato facile scoprire che i marinai non si ammalassero più e gli permise di fare questo lungo viaggio dal Madagascar al Capo di Buona Speranza. Senza questa scorta di limoni questo viaggio non sarebbe stato possibile e le stesse spedizioni scientifiche non sarebbero state possibili. Quindi ricordiamocelo quando assaggiamo le arance, anche delle capacità eccezionali che hanno da questo punto di vista. Ci basta anche un'arancia al giorno, no? Sì, un'arancia al giorno, perché poi i quantitativi di vitamina C si aggirano intorno ai 60 mg giornalieri. Potrebbe essere un arancio, però qualcuno preferisce andare in farmacia e comprarsi la confezione di vitamina C, io dico così ti perdi però il sapore tipico, unico, inconfondibile degli agrumi. Sono buoni, fanno bene e per fanno cui è bene. è stato un attimo che questi agrumi si siano diffusi veramente dappertutto, ma appunto come ci anticipavi non hanno origini nel nostro Mediterraneo come noi immaginiamo, in realtà provengono dal sud-est asiatico, dalla Cina, dall'India. E qui la storia, la questione si fa un po' più complessa, perché quando parliamo di agrumi parliamo di più specie. Adesso noi nella storia sappiamo che cedri e limoni già li consumavano romani perché gli avevano insegnati i greci, e da dove li prendono? Punto interrogativo. Qualcosa di più certo lo sappiamo per l'arancio, quindi con l'arancio andiamo sicuramente in un'area vasta che prende un po' di Cina, Malesia, Thailandia. Lì esistono le forme selvatiche e lì pensiamo che tutto sia partito, ma le forme selvatiche sono piccoli arbusti che producono frutticini, ma poi tutto il percorso lungo quanto è stato ricostruirlo è difficilissimo. Possiamo seguire la parola arancia, che viene da nagaria, termine di derivazione indiana, e quindi lì potrebbe essere l'origine, ma poi diventa narange e qui entrano in gioco i persiani, a cui dobbiamo il loro arrivo nell'Europa mediterranea. Quello che è certo è che primi di tutti sono stati conosciuti i cedri e i limoni, poi in seguito l'arancio. La prima arancia ad essere conosciuta è stata quella amara. Sì, è quella amara e rappresenterà una novità. E per la prima volta le fonti storiche parlano che già c'era nell'anno 1100, già c'era questo nuovo frutto. È globoso, somiglia a una mela, di qui diventerà melarancio, lo chiameranno anche melangolo o citrangoli. La prima volta che arriva un agrume che ha un bel valore ornamentale, infatti impazziscono nel coltivarlo non solo quelli mediterranei, ma francesi, olandesi, nasceranno le famose orangerie, c'è una vera e propria citromania. Insomma, citromania. Ma arrivando all'arancio dolce, quello che ancora assaggiamo e assaggeremo sicuramente seduti al tavolo di Natale, per esempio, arriverà intorno al 1500 in Europa e in Italia, e da lì non si fermerà più. In realtà già c'era, ai primi anni del 1500 già c'era, però la letteratura ufficiale dice che questo arancio dolce lo porteranno i portoghesi, e non è un caso forse che abbiamo imparato a chiamarlo dalla Spagna, dal Portogallo, alla Sicilia, al Carcano, Portogallo. Non è realtà, non è verità, perché possiamo dimostrare invece che i primi che lo portano sono i genovesi. Comunque da lì in poi, insomma, gli agrumi si spanderanno ovunque, e tra l'altro tra il 1800 e il 1900 l'Italia sarà il primo produttore, ormai non è più così. Gli agrumi antichi si stanno perdendo. Adesso cosa coltiviamo di più in Italia dal punto di vista dell'arancia? Quali sono quelle che troviamo al mercato solitamente? Intanto troviamo il gruppo delle cosiddette arance rosse, perché c'è un forte interesse da parte dei consumatori di fare spremute, allora il colore, questi succhi rossi colorati, qui la Sicilia fa da padrone. Quindi tarocchi? I tarocchi, i mori. La famosa spremuta. Sta diminuendo molto il consumo dell'arancio fresco e qui la fanno da padrone invece queste nuove cultivar che arriveranno poi dall'America, dal Brasile, nei mercati. Oggi troviamo fondamentalmente Washington, Navel e Naveline, questi frutti grossi, tutti senza semi, però se poi chiedete a un contadino che è cresciuto negli agrumeti ti diranno che il sapore è acqua e zucchero, perché loro evidentemente si portano dietro questi sapori di cultivar antiche. Certo, perché gli agrumi sono ben altro rispetto ai pochi che vengono prodotti su larghissima scala, e noi possiamo conoscere veramente il mondo di questi agrumi anche con le foto e anche con la storia approfondita in un libro scritto appunto da Nello Biscotti, che si intitola Storie di agrumi e paesaggi. È una sorta di regalo di Natale, perché basta scrivere su Google Storie di agrumi e paesaggi, l'editore è Edizioni del Rosone, per poterlo ottenere liberamente, gratuitamente, e veramente tuffarci nel mondo degli agrumi in questo inverno così particolare e così strano, se non possiamo andare a visitare dei giardini, tanto vale leggere e informarsi per tempo. Ma perché Nello Biscotti hai scritto questo libro? Perché in realtà tu tra gli agrumi sei cresciuto nell'infanzia, tra quelli del Gargano. Sì, c'è sempre una ragione emozionale. Sì, sono cresciuto in questa campagna agrumetata, una delle poche campagne abitate per cui ci si abitava negli anni 50-40, e i ricordi sono questi, di voci, di bambini, di un da fare continuo di attese per questi frutti, ma anche di paure che potesse arrivare una gelata, e la gelata comprometteva un raccolto atteso per un anno, comprometteva impegni finanziari, perché tanti contadini si potevano con piccole parcelle di 50-70 alberi potevano comprarsi un appartamento, almeno ancora fino agli anni 60. Questo appunto in assenza di gelata. In assenza di gelata, sì. E per questo i bambini del Gargano, come ho letto nel libro, non potevano gioire all'arrivo della neve, perché avrebbe potuto significare la perdita del raccolto. Eh sì, questa adesso mi stai ricordando un'amarezza infantile, proprio di essere privati della gioia della nevicata, guardando dalla finestra, perché a fianco c'era la nonna o la mamma con la faccia triste che ti rimproverava della tua gioia perché quella neve poteva significare poi una gelata e significare la distruzione del raccolto e tutte le fatiche spese. I giardini degli agrumi del Gargano, così come li racconti, non ci sono più, purtroppo, però qualcosa è rimasto, naturalmente. C'è quindi la possibilità, ancora venendo nel Gargano, di poter ammirare il paesaggio di un tempo, cioè questi giardini di agrumi vista mare. C'è ancora la possibilità tra Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, vero? Sì, questa possibilità con un pizzico di immaginazione, questa possibilità c'è, sono rimasti tanti, la gran parte sono stati abbandonati, quelli rimasti sono sufficienti a darci un'idea di come poteva essere questo paesaggio. E poi tutto diventa più facile immaginarlo perché ancora oggi questi alberi sono capaci di profumi, di zagare, che è un profumo che sconvolge. Ci consigli una varietà di agrumi del Gargano antica, tipica, che insomma ci permetta di variare rispetto a quelle che troviamo appunto al supermercato o normalmente? La varietà più tipica che è tutelata da un marchio di qualità IGP è l'arancia bionda del Gargano. Ha un colore biondo, un po' schiacciata, quindi geoidale come forma, ha una buccia sottilissima, è molto molto succosi e che se uno li assaggia non dirà mai solo acqua e zucchero. Se la famiglia fosse un frutto, sarebbe un arancio, un cerchio di sezioni tenute insieme ma separabili, con ciascun segmento distinto. Letty Cottin Pogrebin. Come fare, stando in città, in questi periodi di scarsi spostamenti, a godersi una pianta di agrumi? Basta coltivarla sul balcone, tra poco vedremo come. Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3000 anni, come per un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo. Il cielo fa parte della nostra cultura. I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Sono mille, sono 1 milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Il giardino segreto. Assaggi e dici che non sono buoni, ma se tu aspetti il loro tempo, arriva poi il momento in cui li troverai dolci come li vuoi. Noi limoni succosi, e non solo, li andiamo a cercare in Toscana, nel Pistoiese, in un vivaio specializzato che esiste ormai dagli anni 60. È a Pescia, si chiama Oscar Tintori ed offre anche un raro giardino degli agrumi. Ben trovato ad Alberto Tintori. Buongiorno, allora, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Esatto, sì, noi abbiamo in azienda costruito nel 2004 un vero e proprio percorso botanico dedicato esclusivamente agli agrumi per valorizzare le varietà che negli anni siamo riusciti a collezionare e quindi rendere fruibile al pubblico una collezione che conta varietà che discendono dalle vecchie collezioni medicee storiche a varietà più moderne. Ne raccoglie oggi circa 200 varietà che provengono da tutto il mondo. È un giardino degli agrumi in serra, per cui sì. Al di là di questo momento molto particolare, visitabile in ogni stagione. Sì. in ogni momento offre qualcosa di diverso. C'è un patrimonio di biodiversità non indifferente, ecco. È una ricchezza che credo sia destinata a meravigliare, perché poi in certi frutti mi viene in mente la mano di Buddha, di solito esatto. Sorprendono. Sì. Sì, io guardi, dopo anni devo dire che riusciamo ancora a sorprenderci, perché è proprio nelle espressioni del visitatore che tutti i giorni apprezziamo queste meraviglie. Il visitatore viene, come diceva giustamente lei, un po' stupito dalla diversità delle forme, dei colori, ma anche dei profumi di questa collezione. L'agrume ha questa strana capacità di mettere allegria. Una pianta di limoni lo fa, diciamoci la verità. Chissà qual è la sensazione quando si è completamente circondati da alberi del genere. Sì, effettivamente è vero. Noi riceviamo visite che provengono un po' da tutta l'Europa, quindi per uno scandinavo, per un tedesco, questo stupore, questa meraviglia è ancora... Ma guardi, anche per un milanese, io credo, alla fine. A tal punto che c'è sempre più desiderio di portarci qualche agrume anche in città. E ormai, ahimè, se c'è da trovare un lato positivo nel riscaldamento globale è questo, che ci sono degli agrumi che ormai resistono tranquillamente anche nelle città del nord, così. Sì, devo dire che sicuramente anche all'interno della città le condizioni climatiche sono più miti negli ultimi anni. Si riesce anche a riparare meglio gli agrumi su una terrazza, su un piccolo balcone all'interno della città. Ecco, basta semplicemente appoggiare la pianta in una zona un pochino più riparata contro un muro e appunto proteggerla con del tessuto non tessuto, dei cannicci, insomma con coperture anche abbastanza semplici si riesce a salvare gli agrumi dal gelo. Ecco, lei verso quali agrumi indirizza le persone che non hanno grandissima competenza ma molto desiderio di averne? Ma guardi, sicuramente chi inizia la collezione, perché poi diventa una citromania. Gli agrumi. Ah, non c'è scampo. Si inizia con il limone e poi la collezione aumenta, no? Piano piano. Quindi il limone è bene o male la pianta principe che viene richiesta da coloro che vogliono iniziare appunto questa coltivazione. Ecco, ponendo un limone in vaso, quale tipo? Beh, senta, ora non per portare l'acqua al nostro mulino, ma il limone toscano quattro stagioni è quello che a noi ha dato più soddisfazione, probabilmente anche perché noi da secoli qua coltiviamo quello e abbiamo visto che effettivamente dà dei buoni risultati, ha una bella rifiorescenza, quindi produce in continuazione da primavera ad autunno generando frutti scalati sulla pianta, quindi bene o male sopra ci troviamo sempre qualcosa, insomma. No? La primavera all'autunno, che meraviglia. Esatto, quindi sì. Avremo un vaso produttivo, non solo decorativo. Sì, esatto. Ma basta un limone? Sì, sì, perché gli agrumi non hanno necessità di avere, come dire, il compagno o la compagna, sono autofertili, quindi... Tutti? Sì. Quindi ci basta una pianta, sono autofertili per avere dei limoni. Esatto, quindi esatto, la posizioniamo esatto. Naturalmente in una parte riparata e soleggiata. D'inverno sicuramente sì, e in estate è sufficiente anche una mezza giornata di sole sul terrazzo. E importante è appunto sia in inverno ma soprattutto anche in estate una buona irrigazione. Talvolta si pensa che gli agrumi sono originari, no, del sud, del Mediterraneo, hanno necessità di poca acqua, e invece no, è importante soprattutto appunto perché sono in vaso, devono essere ben irrigati, aspettare che i primi strati più superficiali della zolla risultino asciutti per irrigare proprio in modo copioso, abbondante, e attendere, può essere un giorno, possono essere due, possono essere tre, questo è in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'esposizione, la nuova irrigazione. Ecco, questo è importantissimo. Un'altra cosa fondamentale è evitare il ristagno di acqua sotto il vaso, non vogliono i piedi a mollo, come si dice. E come molte piante del resto. Esatto. Quando arriva la stagione più fredda lo circondiamo di tessuto o non tessuto? Sì. Concime? Ecco, è importante anche concimare con dei concimi specifici per agrumi. Noi abbiamo il concime nostro che si chiama Chicchi di Sole, e con sole tre applicazioni all'anno le piante crescono in modo corretto. Ecco. Marzo, giugno e settembre, ha detto? Sì, perché appunto marzo è il periodo in cui le piante escono dal ricovero, la pianta inizia a vegetare, quindi ha necessità di trovare del nutrimento nel terreno. A giugno è importante di nuovo intervenire, perché si prevede ovviamente durante il periodo estivo un dilavare delle sostanze a causa appunto delle frequenti irrigazioni, e a settembre appunto si interviene perché la pianta arrivi all'inverno coperta e ben nutrita. Marzo, giugno e settembre sono i tre momenti per cui concimare. Sì. Chi avesse già un limone, si tratta di concimi a lunga durata granulari? Sì, esatto, a lenta cessione. Sembra tutto semplicissimo. Questo con il limone toscano a quattro stagioni. Sì, ma come per quello, anche per tutti gli altri agrumi, ecco. Poi ci possono essere, non so, adesso mi spingo, il lime dei Caraibi, che sicuramente durante l'inverno tende a perdere un po' più la foglia perché avrebbe bisogno di temperature un pochino più elevate, però abbiamo visto nelle nostre serre dove teniamo una minima di 4 gradi, sì, è vero, perdono un pochino più la foglia, però poi riescono a fiorire e a fruttificare come tutte le altre varietà, anche un po' più resistenti, tipo per esempio l'arancio amaro, può essere anche qui da noi in Toscana, in alcune zone lasciato anche fuori. Quindi quanto ci ha detto vale per quasi tutte le città d'Italia, va bene, non andiamo in montagna certamente, però nord della Pianura Padana e poi per tutto il resto dell'Italia, noi non ci illudiamo, ce la possiamo fare, perlomeno col nostro limone. Sicuro. Ma ha un senso in questo periodo in cui siamo solleticati dal profumo delle bucce di mandarine e di aranci, volere o anche pensare di regalare un agrume adesso? Certo, sicuramente è una proposta per i prossimi festività, e lo vediamo tutti i giorni, gli ordini che arrivano, che solletica un po', ecco, qualcosa di diverso per stupire un po' e come si diceva all'inizio, un po' per rallegrare, no? Io mi sono presa la briga di vedere il vostro catalogo e ci si perde tra i nomi, veramente, per i neofiti è veramente difficile orientarsi. Posso chiederle se lei ha un agrume particolarmente caro che ancora la sorprende o più degli altri? Sì, guardi, noi ci siamo specializzati in questo tipo di coltivazione, siamo arrivati alla terza generazione, siamo riusciti a collezionare più di 500 varietà che, come lo dicevo, derivano sia da una tradizione più nostra toscana che varietà più moderne che vengono dall'Australia, dagli angoli un po' più remoti del mondo. Ma io amo molto il cedro della Cina. Il cedro, l'altro antichissimo agrume. Sì, è uno dei primi agrumi arrivati in Europa. Ed è quello che ancora incanta, perché? Sicuramente le dimensioni dei cedri. Abbiamo il cedro Maxima, che il nome parla da solo, si raggiungono quasi il chilo di peso. Il macio degli agrumi. Sì, proprio. E oppure ci sono altri cedri di forme più piccole, ma dal profumo veramente intenso. Ne abbiamo un altro che si chiama il cedro ordinario, che di ordinario non ha niente, che ha un profumo, la foglia ha un profumo veramente spettacolare. Cioè, i cedri sicuramente sono fra le varietà che stupiscono appunto per la dimensione dei frutti, anche per la dimensione del fiore, perché il fiore rispetto a quello del limone, del mandarino, è molto più grande. No? Cedro ordinario, il nome non è bello ma è molto facile da ricordare, quindi grazie per questo consiglio ad Alberto Tintori di Oscar Tintori. Allora, appuntamento nel giardino degli agrumi appena si potrà. Grazie, vi aspetto. Da qualche parte c'è sempre il giallo di un albero di limoni a ricordarci la luce. Fabrizio Caramagna. www.oscartintori.it per ritrovare il limone toscano quattro stagioni e centinaia di altri sorprendenti agrumi. Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Ci ritroviamo domenica prossima, l'ultima d'autunno, alle 15.30 o quanto preferite, riascoltando in podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.